In primo piano. Alle 7:31 minuti, una buona giornata da Laura Bettini per questa rassegna stampa in questo sabato mattina. Le prime pagine ovviamente sono dedicate tutte a questioni collegate all'epidemia di coronavirus, ciascuna con il suo taglio. Ovunque però troveremo sia il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, sia la preghiera del Papa ieri in San Pietro. Ma cominciamo dal Sole 24 Ore, che in prima pagina porta appunto non solo il Presidente della Repubblica e il suo messaggio alla Nazione, ma l'intervista a Giuseppe Conte, di cui avete già sentito nel corso dei nostri giornali radio. Conte, una sfida epocale per l'Europa, questo è il titolo. Il Presidente del Consiglio dice: con la cancelliera Merkel c'è stato un confronto franco e duro, la nostra proposta è sul tavolo, un piano e un bond per ricostruire l'economia. Il giorno dopo la battaglia al Consiglio europeo e il confronto duro e franco con Angela Merkel, e Giuseppe Conte, in questa intervista al Sole 24 Ore, leggiamo, esorta l'Europa tutta a non compiere errori tragici e avverte che l'intero edificio europeo rischia di perdere la sua ragion d'essere. L'Italia andrebbe avanti lo stesso. Viceversa, l'inerzia, dice il Presidente del Consiglio, consegnerebbe ai nostri figli il costo immenso di una economia devastata. E poi vedremo anche qualche passaggio di questa intervista. Intervista che è stata realizzata da Manuela Perrone e Giorgio Santilli. Sempre dalla prima del Sole 24 Ore, servizi di pubblica utilità, questo è un allarme di cui scrive Jacopo Giliberto, energia e rifiuti, doppio rischio di blackout e blocco al riciclo. Di blocco al riciclo, raccolta differenziata in difficoltà, ma in generale raccolta dei rifiuti in difficoltà, si parla ormai purtroppo da 10-15 giorni, adesso si aggiunge anche il rischio di possibili blackout a causa della chiusura di alcune centrali elettriche. Perché a questo proposito, tra l'altro, domani ospite di Si può fare, quindi a partire dalle 8:30 di domani ci sarà l'amministratore delegato dell'Enel Francesco Starace, e ovviamente con lui parleremo anche di questo rischio blackout. Centro pagina Sole 24 Ore, abbiamo detto, dei servizi di pubblica utilità, e poi IMU e Tari stop fino al 30 di novembre. Questo decreto aprile, in arrivo la possibilità per gli enti territoriali di fermare i pagamenti, mancato gettito coperto da anticipazioni della CDP con garanzia statale. Andiamo al Corriere della Sera, la UE superi i vecchi schemi, questo è il titolo di apertura, Mattarella dice interventi prima che sia tardi, Conte pronti a fare da soli, manovra da 30 miliardi, cala la crescita dei positivi, mai così tante vittime, sappiamo 969, il governo punta a prolungare il blocco per altri 15 giorni dopo il 3 di aprile. Al centro pagina la fotografia è quella della piazza deserta, il Papa che prega, piazza San Pietro vuota, il Papa che aveva accanto l'immagine della Salus Populi Romani e il crocifisso di San Marcello ha pregato per non lasciare nella tempesta, il virgolettato, il mondo che sta soffrendo per il coronavirus. Sul Corriere della Sera, ma anche su altri quotidiani, perché l'intervista è stata rilasciata congiuntamente al Corriere, la Repubblica e la Stampa, c'è anche l'intervista al presidente francese Macron. Se l'Europa può morire è nel non agire. Riporta in prima pagina il Corriere della Sera, il presidente Macron al Corriere dice anche di condividere l'appello di Draghi. Sul Corriere della Sera c'è anche l'intervista al sindaco di Milano, Beppe Sala, nulla come prima, si ripartirà a tappe, questo è il titolo, lo intervista Maurizio Gian Attanasio. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, dice che una volta terminata l'emergenza coronavirus nulla sarà più come prima e che fin da ora va progettata una ripartenza a tappe. Poi c'è anche qui un riferimento a un'app per il tracciamento delle persone, relativa compressione della privacy, dice Sala, si può fare ma con garanzie. E poi la vita dopo i balconi, Massimo Gramellini. Scrive tra l'altro Gramellini: i bambini di cui nessun decreto si occupa hanno smesso di fare domande, vagano nei loro mondi. A casa nostra Diego, 7 anni, si è inventato un virus supereroico che uccide tutti gli altri virus. Lo ha chiamato Tax, chissà perché. Il contagio, che era la novità, è diventata la vita. Cominciano a suonare fastidiosi i termini roboanti con cui tanti si ostinano a definirlo: epocale, apocalittico, biblico, come se la realtà avesse bisogno di effetti speciali. Siamo abituati a provare emozioni e riusciamo a sopportarne anche di violente, a patto che rimangano brevi. Ma questa dura da troppo, ormai non ha date di scadenza né esiti chiari. La prima fase dell'esperimento sociale può dirsi conclusa. Siamo precipitati nella seconda fase, eppure l'unica che conta è la prossima, disperazione o riscossa. Ci viene in soccorso lo Shakespeare della tempesta, il passato è il prologo, il futuro è nelle nostre mani. Purché, conclude Gramellini, purché disinfettate con ammucchina. La Repubblica, tutta pagina, la fotografia di Piazza San Pietro, come sappiamo, deserta, la preghiera di Francesco, nessuno si salva da solo, questo è il titolo. Il Papa in San Pietro vuota, ci credevamo sani in un mondo malato. Poi c'è il messaggio di Mattarella, l'Europa agisca prima che sia troppo tardi, in un giorno 969 morti, contagi stabili, positivo Boris Johnson. Questo il riassunto di giornata fatto dalla Repubblica. L'intervista a Macron, di cui dicevamo prima, io assieme a Conte in questa guerra, e poi l'editoriale di Carlo Verdelli, chiudere la Lombardia. Il riferimento specifico alla Lombardia arriva soltanto verso il finale dell'editoriale, in cui si ripercorrono vari passaggi e vari episodi di vita e di ricerca di questi giorni. La conclusione è che anche dopo l'accordo con i sindacati, che ha portato a un restringimento delle attività consentite, nell'industriosa Lombardia circolano ancora quotidianamente centinaia di migliaia di lavoratori, soltanto in parte legati all'indispensabile filiera che garantisce alimentari, sistema sanitario, farmacie. Donne e uomini che escono di casa, raggiungono la fabbrica, il magazzino o l'officina con mezzi pubblici o propri, si offrono a infinite possibilità di contagio, tornano a sera in abitazioni dove magari li aspettano familiari che stanno rispettando la consegna della quarantena. Non è il momento dei processi né dell'attribuzione di responsabilità, scrive Verdelli, ma è il tempo, questo sì, del coraggio di prendere decisioni forti. Fatte salve le attività strettamente necessarie, andrebbe con responsabilità e con urgenza valutata l'ipotesi di chiudere in modo drastico l'intera Lombardia per 2 settimane, chiedendo un ulteriore ma non differibile sacrificio a chi ci abita, a chi ci opera, ai titolari di piccole e medie imprese comprensibilmente spaventati dall'idea di non riuscire a ripartire. Qualsiasi ipotesi di ricostruzione dopo questo abisso passa attraverso decisioni nette che mettano in cima alle priorità la salvezza delle vite e quindi il contenimento del contagio. La conclusione, al di là di ogni calcolo di convenienza, salvare la Lombardia per salvare l'Italia prima che sia davvero troppo tardi. Io non conosco l'osservatorio, diciamo, di Verdelli, conosco la città in cui abito, Pavia, che è totalmente deserta, quindi non so quanto altro si possa bloccare in provincia. Una riflessione che può fare chi sicuramente ha una visione ampia e diretta delle cose. Andiamo alla Stampa. Record di morti, ora in campo l'esercito, respiratori, mascherine, dispositivi, troppi ritardi, li distribuiranno i militari, scrive la Stampa, così l'apparato sta frenando gli aiuti. Discorso di Mattarella: l'UE capisca la minaccia o sarà tardi, preghiera del Papa nella piazza deserta, fitte nubi sul mondo. Centropagina, la fotografia è quella appunto di Papa Francesco sotto la pioggia battente in piazza San Pietro, prima della benedizione urbi e torbi per l'emergenza coronavirus. Anche qui Macron: l'Europa basta egoismi, rischi di morire. E poi si riporta in prima il rischio, o meglio le prime rivolte al sud, a Palermo, le prime razzie, tenuta sociale in pericolo. E nelle pagine interne ne scrivono Laura Anello e Grazia Longo, che riferiscono di questo assalto al supermercato Lidl di Viale Regione Siciliana a Palermo ieri da parte di una quindicina di persone che hanno riempito i carrelli rifiutandosi di pagare alle casse, leggiamo. Sono comparsi presidi di polizia, carabinieri, guardia di finanza davanti ai tre principali ipermercati della città a quel punto. Su Facebook qualche ora prima si era costituito il gruppo Noi, di cui secondo le indagini i 15 farebbero parte, che chiamava raccolta affamati e senza lavoro per andare a svuotare gli scaffali, e ha scelto il social anche un 35enne di Catania che è stato denunciato dopo aver inviato un messaggio audio su WhatsApp in cui invitava tutti alla disobbedienza per andare a saccheggiare supermercati e rivendite di prodotti alimentari. E questo è quello che sta accadendo, quindi polveriera sud, diciamo così. Fatto Quotidiano, titolo d'apertura, dimettono anche chi è ancora contagioso. La Regione Lombardia reindirizza 2.400 ex pazienti dagli ospedali verso hospice e strutture per anziani, nuovi potenziali focolai. Poi in quattro punti la giornata di ieri: perché quei 969 morti, vittime il giorno più nero, si poteva comprarli dal 17 febbraio, il ritardo sui respiratori. Punto 3, intensive, il buco lombardo, 105 posti basteranno, e qui la riflessione tra l'altro la fa sul Corriere della Sera anche il sindaco di Milano Beppe Sala su come questa emergenza abbia portato alla ribalta, abbia fatto risaltare alcune carenze della sanità lombarda, che per altri versi è eccellente, ma per questo specifico aspetto certamente ha dei mancamenti, diciamo. Quarto punto sul Fatto Quotidiano: vincono TG, film e fiction, TV boom, salvo il trash. Dalla prima del Fatto Quotidiano vediamo anche appunto Papa Francesco nel deserto di San Pietro, tenebre fitte sulle nostre città, il Colle blinda Conte, avverte l'UE, schemi vecchi fuori dalla realtà. E poi un riferimento a Genova, il ponte va avanti, gli operai e i pompieri infettati e senza difese. Messaggero, Mattarella, Europa, ora basta, il presidente avverte l'UE, intervenga prima che sia troppo tardi, italiani, grazie dei sacrifici. E poi si ricorda virus, 969 morti, mai così tanti in un giorno, l'appello dei medici, prolunghiamo le misure. Poi Papa prega nella piazza vuota, immagine storica, e poi un'app europea per tracciare gli infetti, ne scrive Cristiana Mangani. Al progetto partecipano i big della telefonia mobile. Ci sono varie proposte di tutti i tipi, ma appunto c'è anche quella di una app europea per tracciare il contagio e quindi poi contenerlo. La Verità. La Verità titola: ora sono tutti contro l'UE, ma il PD è pronto a tradire, l'Europa ci volta le spalle, l'intelligenza progressista dice che è diventata cattiva. No, è sempre stata così, come diciamo da anni, chiosa la verità, un club egoista che esiste solo per fare gli interessi di alcuni paesi, Germania in testa. Poi c'è la preghiera del Papa in piazza San Pietro deserta, Arcuri scarica sulle regioni le colpe di Stato, questo è l'altro titolo in prima. Dopo che La Verità ha svelato il suo sfogo sull'inefficienza Consip, il commissario usa la conferenza stampa per giustificarsi e per dire che sono i governatori a dover procurare mascherine e respiratori. Alessandro da Rodone scrive: da almeno 10 giorni il commissario Domenico Arcuri si alza la mattina e sa che dovrà rispondere in fretta alle esigenze delle regioni che aspettano invano il materiale per contrastare la pandemia, ma più che una gazzella sembra un elefante. Del resto le misure messe in campo fino adesso continuano. Vediamo anche il titolo del Giornale, prima della viabilità: qui non arriva un euro, si rischia la rivolta, a tutta pagina, imprese e famiglie abbandonate, la burocrazia frena gli aiuti, primi saccheggi nei supermercati. Il presidente Mattarella: Europa, muoviti subito, poi bacchetta. Conte dice: misure solo annunciate, il caso del fuori onda. E poi al centro pagina il Papa che prega appunto in San Pietro: Dio salvaci dalla tempesta, l'indulgenza tra le sirene. Sicuramente le sirene in sottofondo durante la preghiera del Papa sono state forse la parte più impressionante, diciamo, di questa preghiera. Abbiamo la viabilità tra poco. In primo piano. Ripartiamo da Libero, arrivano nuove terapie, speranza o illusione, questo è il titolo, autorizzata la sperimentazione di farmaci anti-AIDS e antimalaria, altro tentativo di rallentare il morbo. Per ora un paio di molecole sembra dare risultati, però solo il vaccino sarà definitivo. Poi Mattarella si è rotto di Merkel e UE, vanno verso il suicidio, questo è la sintesi, secondo Libero, del messaggio del Presidente della Repubblica. Al centro pagina una fotografia di Beppe Sala e della sindaca Raggi. La Raggi stavolta è più brava di Sala, lei denuncia chi sgarra, lui nascondere i dati, dice Libero. Johnson irrideva il corona, però alla fine l'ha preso e i buonisti nostrani godono. Giovanni Sallusti scrive: non vedevano l'ora le anime belle, progressiste, tolleranti e civili. Boris Johnson positivo al coronavirus è più di quanto speravano, è il detonatore perfetto per scatenare il loro odio. Andiamo a Quotidiano Nazionale. Mattarella ai leader europei: svegliatevi, Commissione e BCE hanno preso decisioni importanti, capi di governo ancora no. Nel mirino il fronte del rigore, lotta al virus, quasi 1000 morti in un solo giorno, ma il contagio rallenta e gli scienziati dicono il picco potrebbe essere vicino. Il titolo invece sulla preghiera del Papa è «Io vi assolvo». Il rito di Papa Bergoglio, 83 anni, in una piazza San Pietro silenziosa e vuota, sul sagrato il crocifisso di San Marcello al Corso, che salvò Roma dalla peste del 1522. Il Papa nella piazza vuota concede l'indulgenza plenaria. Signore, aiuta il mondo malato, nessuno si salva da solo. E poi il manifesto, anzi no, scusate, prima di passare al manifesto ancora su Quotidiano Nazionale, la scuola resta chiusa, battaglia sul sei politico, la ministra decidono i professori. Così il tema scuola, che resta ovviamente quotidiano, perché come sappiamo le scuole ormai sono chiuse, almeno in Lombardia, dal 20 di febbraio e lo resteranno sicuramente a lungo. Niente scuola a luglio, vado a vedere l'articolo di Veronica Passeri sul tema. Niente scuola a luglio, aiutare chi ha voti bassi. Il ministro Azzolina sui rimandati e l'esame di maturità aspetta i professori a decidere se ammettere anche chi ha la media del 5. E leggiamo giusto l'attacco, certezze smentite, lavori in corso. La ministra dell'istruzione Lucia Azzolina ha fatto nuovamente il punto dopo l'informativa in Senato di giovedì su cosa accadrà alla scuola durante l'emergenza ancora senza scadenza del coronavirus. Certezza, le scuole non riapriranno il 3 aprile, data inizialmente indicata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sicuramente ci sarà una proroga, si andrà oltre il 3 aprile perché il nostro obiettivo in questo momento è che gli studenti possano tornare a scuola solo quando le autorità sanitarie diranno che è stracerto che possono tornare nelle aule, ha spiegato Azzolina intervistata su Rai 1. Poi una secca smentita, la scuola non si protrarrà fino a luglio. Se la didattica a distanza funziona come sta funzionando in buona parte del paese, non c'è assolutamente alcun motivo per prolungare le lezioni a luglio e agosto, ha sottolineato. È il buona parte del paese però che non torna. Comunque ha sottolineato in delle strutture scolastiche che non sono adatte ad affrontare il nostro clima estivo. Insomma è irresponsabile fare degli scenari adesso, ma se ci sarà la necessità di riprendere alcuni apprendimenti per i nostri studenti si farà in un secondo momento. A chi sarebbe stato rimandato si permetterà di recuperare. Poi la questione del sei politico ha ribadito: se abbiamo tantissima parte di scuola che sta lavorando come si deve, non ho motivo di dire se ci sarà il 5 o il 6. Le valutazioni le farà il personale docente in piena autonomia. Stesso refrain sulla possibilità, riportata da alcune indiscrezioni, di essere ammessi all'esame di Stato con delle insufficienze. Non ho mai detto nulla del genere, dice Azzolina. Manifesto. Nessuno escluso, anche qui la fotografia di Papa Francesco, siamo tutti sulla stessa barca. In una piazza San Pietro spettrale, livida di pioggia, il Papa con una preghiera sociale si rivolge al dolore del mondo scosso dalla pandemia, che ieri in Italia ha registrato il giorno peggiore, superando la curva più alta della crisi in Cina, quasi 1000 morti, riservando qualche speranza per quella dei contagiati. Così il manifesto. Infine secolo XIX, virus, mai così tante vittime in Italia, appelli all'UE da Mattarella e Macron. Il Papa, Signore non lasciarci nella tempesta, il titolo che viene scelto in prima pagina del secolo XIX. Dunque riprendiamo rapidamente due passaggi, uno dell'intervista al Premier Conte al Sole 24 Ore, dove ha detto appunto che c'è stato un confronto franco e duro con la cancelliera Merkel. In Italia, dice Conte, ma anche negli Stati membri, siamo costretti a operare scelte tragiche. Dobbiamo evitare di compiere in Europa errori tragici. Se l'Europa non dovesse dimostrarsi all'altezza di questa sfida epocale, l'intero edificio europeo rischia di perdere agli occhi dei nostri stessi cittadini. Poi gli si chiede della discussione sul MES. Il MES, dice, è uno strumento costruito per prestare soccorso ai singoli Stati membri che attraversano tensioni finanziarie ricollegate a shock asimmetrici. Il coronavirus sta invece causando uno shock simmetrico, con l'effetto di deprimere in modo sincrono e completamente inatteso i nostri sistemi economici e sociali. Qualcosa di completamente differente rispetto alla crisi del 2008. Siamo a un passaggio critico della storia europea. Vogliamo essere all'altezza di questa sfida? Allora variamo un grande piano, uno European Recovery and Reinvestment Plan, che sostenga e rilanci l'intera economia europea e semmai faccia fare un salto di qualità all'intera architettura europea. I nostri competitori internazionali si stanno attrezzando con stimoli economici assolutamente eccezionali. Dobbiamo fare altrettanto. Qualche passaggio dell'intervista di Manuela Perrone e Giorgio Santilli, molto ampia, tutta pagina sul Sole 24 Ore, dove si affrontano davvero, davvero tanti temi che vanno tra l'altro fino agli aiuti medici e materiali dalla Cina e dalla Russia, di cui si è molto discusso in questi ultimi giorni. Volevo leggere qualche passaggio prima di chiudere anche dell'intervista che, come dicevamo, compare al presidente francese Macron su Repubblica, Corriere e Stampa. Leggo qualche passaggio dal Corriere della Sera, Stefano Montefiori, corrispondente da Parigi. Dice Macron: con Giuseppe Conte, Pedro Sanchez e altri sei capi di Stato e di Governo abbiamo indirizzato prima del Consiglio una lettera a Charles Michel per inviare un messaggio chiaro. Non supereremo questa crisi senza una solidarietà europea forte a livello sanitario e di bilancio. Questo è il punto di partenza. Gli strumenti vengono in seguito. Dobbiamo essere aperti. Può trattarsi di una capacità di indebitamento comune, di un aumento del bilancio UE per permettere un sostegno reale ai paesi più colpiti da questa crisi. Al Consiglio giovedì, 10 paesi dell'Eurozona, rappresentanti del 60% del suo PIL, hanno esplicitamente sostenuto quest'idea. È la prima volta. Alcuni paesi, tra cui la Germania, hanno espresso le loro reticenze. Abbiamo deciso di continuare questo dibattito nelle prossime settimane perché non possiamo abbandonare questa battaglia. Preferisco un'Europa che accetti divergenze e dibattiti piuttosto che un'unità di facciata che conduce all'immobilismo. Se l'Europa può morire è nel non agire. Come Giuseppe Conte, non voglio un'Europa del minimo comun denominatore. Il momento è storico. La Francia si batterà per un'Europa della solidarietà, della sovranità, dell'avvenire. Qual è il tempo massimo che l'Europa può attendere? Gli si chiede. Non voglio focalizzarmi su una data né su una cifra, non avrebbe senso. La forza di Mario Draghi quando parla di whatever it takes nel 2012 risiede proprio nel fatto che non dà cifre ma un segnale di un'azione determinata ed illimitata. Bene, ci dobbiamo fermare con questa rassegna stampa. Ci ritroveremo alle 8.30 con Si può fare, come ogni settimana. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto e un ringraziamento a Peter Bescapè in regia.